volevo un naso un po' più dritto ed un amico più sincero. Volevo un giorno in cui pensare a me. Volevo scegliere di andare per una strada più sicura, a modo mio, come piaceva a me. Volevo uscire, parlare d'amore, cercare il mio destino e averti vicino. Trovavo magico essere libero. Ora no, io non so dove andrò, se sarò valido, se sarò lucido sulla via per la mia maturità. Volevo essere me stesso, volevo essere più vero. Volevo un mondo con meno crudeltà. Volevo una giustizia vera, perché innocente soffre ancora. Per ogni uomo che ancora non ce l'ha. E non sai quanto volevo parlare ancora insieme a te. Ora voglio dirti che io trovo stupido fingermi pratico. Non lo sai come sto, ora no, non lo sai. Se essere libero vuol dire schiavo di paranoie e manie, no, non ci sto. Cambia tutto e tutto resta uguale. E non posso dare forma ai sogni miei. Sai, non era questo che volevo, perché ciò che vuoi è quello che sarà. Trovavo magico essere libero. Ora no, io non so dove andrò, che farò. Trovavo magico essere libero. Se sarò lucido sulla via per la mia maturità.